Web. Incursioni nell'arte e nella letteratura. Buongiorno a tutti, siamo ancora di nuovo qui con Webble Cultura Bologna, il giornale online che parla della cultura della città. Io sono Paola Naldi, ma oggi usciamo dalla città e arriviamo a Venezia. Siamo appena stati alla Biennale, molto discussa, molto visitata, c'era moltissima gente nei padiglioni, all'arsenale, ai giardini, ma tra le tantissime cose vogliamo segnalarvi quello che ci è piaciuto di più. In particolare ci ricolleghiamo a Bologna perché, anche se in maniera trasversale, abbiamo trovato delle presenze che sono familiari in città, perché sono tre artiste in particolare che in qualche modo hanno avuto a che fare con Bologna, sono transitate per studio, sono transitate nei festival, sono transitate nei premi, sono transitate nelle gallerie. E parliamo subito di Chiara Fumai e Liliana Moro, che sono le due protagoniste donne del padiglione Italia, né altra né questa è il titolo, La sfida al labirinto. Allora, Chiara Fumai, forse molti lo sanno, è un'artista che è scomparsa in maniera tragica 2 anni fa, ma lei era passata a Bologna nel 2013 come vincitrice del premio Furla. Qui la ritroviamo con alcune installazioni, soprattutto sonore, che in qualche modo rappresentano bene quello che lei ha fatto nel corso del tempo nel suo lavoro. File audio che in qualche modo prendono in considerazione la politica, prendono in considerazione l'arte, in qualche modo mettono in discussione quello che noi pensiamo dell'arte. In particolare c'è all'interno di questo labirinto una registrazione con la voce dell'artista che recita frammenti tratti da un poema la cui copia è scritta in lingua copta, datata del 350 d.C. e fu trovata all'interno della collezione dei codici Nag Hammadi, una figura femminile e apparentemente divina che parla di sé in prima persona, descrivendo la propria natura sovrumana attraverso una serie di aggettivi e affermazioni paradossali che disorientano l'ordine sociale e linguistico di genere e identità. Insomma, in qualche modo Fumai ha sempre giocato con le parole e anche con l'identità dell'artista, mettendosi sempre in prima persona, mettendosi in discussione. Forse questa sua complessità l'ha portata proprio a decidere di lasciare questo mondo in maniera tragica. La mostra fra l'altro è discussa perché gli ultimi lavori fatti in dialogo, realizzati in dialogo con Milova Ferronato, che è il curatore del Padiglione Italia, in realtà sembra che queste opere non dovessero essere qui perché l'artista non voleva che arrivassero a Venezia. Milovan Ferronato invece ha voluto portarle come un ultimo omaggio, come una rielaborazione del pensiero di Chiara Fumai. Quindi insomma si va a discutere questa scelta del curatore, che in qualche modo ha tradito la volontà ultima dell'artista, però è da vedere. La seconda artista di cui parlavo, Liliana Moro, è a Bologna perché è una delle artiste di riferimento della Galleria dei Foscherari, e anche in questo caso ci sono diverse opere che abbiamo già visto alla Galleria dei Foscherari, appunto, come delle grandi installazioni che in qualche modo rivisitano il pensiero anche politico, di che cos'è la politica, di che cos'è la vita al giorno d'oggi. A me è piaciuto molto questo montaggio del canto Bella Ciao in 15 lingue, è un lavoro in realtà del 2010, però torna molto di attualità in quanto insomma ci riporta le rivoluzioni che sono sparse in tutto il mondo, un inno alla libertà. Mi sembra interessante come un artista, con sempre la capacità di andare prima dei tempi, di anticipare i tempi, abbia voluto pensare questo lavoro. L'altra cosa molto interessante è invece la spada nella roccia, che in realtà è una scultura in vetro soffiato di Murano, quindi in realtà un omaggio a Venezia, simbolo di una grande forza ma anche fragilità, la storia che nelle mani delle donne in qualche modo assume delle forze diverse. forse un'ambiguità del potere politico, mai trasparente, ma in qualche modo racchiuso in un emblema simbolo che è anche un po' fiabesco. Queste sono le cose che intanto abbiamo visto come riferimento a Bologna. Quest'anno il padiglione Italia appunto è stato visitato molto, come dicevo prima, anche l'intera mostra della Biennale è stata discussa, interessante per alcuni versi, ma con delle scelte anche abbastanza criticabili. Questo per oggi è tutto, ci risentiamo a presto per una nuova puntata in cui vi farò scoprire, vi anticipo alcune cose che poi il pubblico potrà andare a vedere a Venezia. Potrete seguire le nostre ricerche sul sito www.webbol.it, la cultura a Bologna. Grazie e buona giornata a tutti.